jeans e la maglietta, la faccia quel sapone, mi ha fatto innamorare questa semplicità. Ma tu non me l'hai detto, dice che sei guaglione e non la tiene ancora, le dava a far l'amore. Ma sei già donna, anche se piccola d'età, non sa c'è ancora nemmeno nome, e dammi ti sento già. Capisco male come fai, chiamerammi sta bocca e la stringiamo in mano e scrivimmi insieme sto romanzo d'amore. Mi hai fatto innamorare, che colpo tenga si te voglio, tu sei guaglione, per chi sta amore non ci vuole dare. Perché non ti convince e ancora me ne caccio, dimmi che non ti piaccio e questa è la ragione. Hai solo occhi a terra, guardami un po' in faccia, dice che sono un pagliaccio, sfrutta tutti i guaglioni. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età, non sa c'è ancora né smorfia che mi fai, mi fanno giù attaccare, tu non capisci o male che mi fai. Chiamerammi sta bocca, vieni a stringermi in mano e scrivimi insieme sto romanzo d'amore. Tu sei guaglione, per chi sta male?